figlia si laurea quest'anno in giurisprudenza, ero curiosa di sapere se questa potrebbe essere un'opportunità. Questa, sì, che ha già risposto parzialmente, cioè che eventualmente può fare pratica presso questi studi, se ce n'è uno qua vicino. E poi un'altra domanda, ma è una specie di franchising che si, alla quale si viene far due, tre, quattro sì, un po' come le reti immobiliari, possono aprire un negozio a chi si devono rivolgere. Loredana, la ringrazio per la sua domanda, la concretizziamo subito la risposta, intanto con l'avvocato Cominotto, poi sentirò anche l'avvocato Romeo su questo, perché prima ci rappresentava la difficoltà anche di reclutare avvocati per il tipo di assistenza che fa negozio giuridico sul territorio, visto che in Emilia Romagna, per esempio, esperienze di questo tipo non ce ne sono, per cui magari vediamo di mettere insieme anche i due aspetti. Comincio con l'avvocato Cominotto. Ma guardi signora, noi a breve apriremo uno studio legale a Seregno, per cui se lei si vorrà contattare in quel momento lo studio legale di Seregno, io non so se ha già siete disposti a valutare anche un neolaureato. Certo, però ecco, per aprire gli studi legali nostri devi già essere avvocato, quindi un neolaureato, un praticante abilitato non può aprire uno studio legale di questo genere, perché con il contatto diretto con le persone deve avere una certa qualifica, una certa preparazione, una certa professionalità. Però detto questo, invito la signora, ripeto, quando aprirà lo studio di Seregno, quando verrà reso noto sul sito, a contattarlo direttamente, magari lo chiamerò anche io, perché no, se vuole, se vuole magari mandarci perché una magari mail. Se su questo ufficio ci sono già 5 professionisti preparati, magari una persona che comunque, come dire, inizia la sua formazione in questo ambito, magari si specializza sin dall'inizio della sua carriera e diventerà anche più brava di voi, magari. Speriamo, ma io me lo auguro, perché no?